che ora sto parlando, ora sto parlando, ora sto parlando. Mi senti? Mi senti? Senti? In cuffia sì, ma mi senti ora nel momento che sto parlando? Thank you.